Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Bentornati a Ferribotto per questa edizione della settimana. Sono Insergante Traghettatore e da subito vi propongo una lettura. La lettura si chiama La spesa a pizzo zero ed è di Francesca Forno per Altra Economia. Francesca spiega come i gruppi di acquisto solidale possono sconfiggere la mafia. C'è anche allegato un documentario di Paolo Maselli e Daniela Gambino, dove si raccontano storie di resistenza quotidiana e si riprendono i volti e le parole di chi affronta ogni giorno la violenza mafiosa. Se non sapete dove o non lo trovate in libreria, vi suggerisco di scrivere a segreteria@altreeconomia.it. Torniamo al tema della responsabilità sociale d'impresa, che come sapete ha nel bilancio sociale una delle forme, diciamo, espressive più chiare e più lampanti del proprio impegno. Ma adesso c'è un'altra parola che sta andando per la maggiore delle imprese ed è bilanci integrati. Bilanci integrati che sintetizzano il tradizionale bilancio di un'azienda con quello del bilancio sociale. Marcello Colla, responsabile amministrativo di Etica SGR, è corretta questa, come dire, sommaria descrizione dei bilanci integrati? Sì, buongiorno. Sì, direi che è corretta. L'obiettivo che un bilancio integrato ha è appunto quello di dare la stessa dignità agli aspetti economico-finanziari della gestione e a quelli sociali, ambientali e di governance. Quindi sostanzialmente l'idea di non avere un documento separato come è il bilancio sociale, ma di integrare questi dati all'interno del bilancio di esercizio, mira a da un lato sottoporre la rendicontazione su questi aspetti agli azionisti, quindi ai proprietari dell'impresa sostanzialmente, per evidenziare non solo l'utile, diciamo, economico, ma l'utile fatto anche in ambito sociale ambientale, quindi realizzando quella che nel mondo anglosassone viene chiamata triple bottom line, quindi andare a veramente tirare una linea alla fine dell'anno e vedere cosa ha prodotto l'impresa, quale utilità ha prodotto l'impresa anche in questi ambiti. Ecco, noi parliamo con lei, con Etica SGR, perché vi siete dotati fra i primi, senza ombra di dubbio in assoluto, ma forse i primi dal punto di vista nell'ambito finanziario, di questo strumento. Quali sono le differenze nel caso di un'azienda come Etica SGR rispetto a questo standard, diciamo? Beh, diciamo che per noi era forse ancora più importante, dal momento che il nostro compito principale è quello di valutare le imprese da un punto di vista di responsabilità sociale, quindi da un lato per noi era importante mantenere una coerenza fra quelli che sono gli aspetti che andiamo a indagare nelle imprese con le quali lavoriamo e le nostre prassi interne, e dall'altro per noi diventa uno strumento per andare ad analizzare non solo quelli che sono i nostri impatti diretti sull'ambiente e sulla comunità di riferimento, quindi quelli generati dalla nostra attività di impresa, ma anche, se possibile nel tempo, quelli che riusciamo a in qualche modo introdurre dialogando con le imprese e cercando di far migliorare anche le loro performance sociali e ambientali, quindi quelli che potremmo chiamare impatti indiretti da un certo punto di vista. Grazie. Chiudiamo con un'ultima notizia. Nasce il Forum Nazionale dell'Agricoltura Sociale. Questa assemblea costituente si svolgerà sabato prossimo nell'ambito di Terra Futura. Ci sono più di 130 organizzazioni da tutta Italia che stanno aderendo, aziende agricole, enti di ricerca, associazioni, una rete in cui saranno coinvolte anche i centri di ricerca e le università che sono già da tempo attive in questo settore, in particolare Pisa e Tuscia di Viterbo. Vi ringrazio per averci seguito. Ferribotto@radio24.it per scrivere e segnalare le vostre iniziative. Ferribotto, vi ricordo, va in onda il sabato alle 6.50, 13.55, e la domenica alle 6.50 e alle 14. Grazie a Danita Panizia in redazione e in regia a Mauro De Angeli. A risentirci.